GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Primo test in Friuli Venezia Giulia del sistema di allerta nazionale per gravi calamità. Test di simulazione che a un minuto dopo mezzogiorno ha raggiunto le utenze mobili dei cittadini. Sorpreso con la droga nello zaino, a Gorizia la polizia arresta un 18enne. Con sé aveva quasi 600 grammi di hashish. Recuperato lo speleologo statunitense, è rimasto bloccato in una grotta in Turchia. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato 4 operatori del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Il Covid torna a rialzare la testa. Dopo un'estate tranquilla si registra un aumento dei contagi e in regione l'incidenza risulta in crescita più che altrove. L'udinese Silvio Brusaferro lascia la guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Da oggi rientra nel suo ruolo di ordinario di igiene generale e applicata all'Ateneo Friulano. In regione permane la carenza di insegnanti di sostegno. Solo alle elementari 107 i posti che non si riescono a coprire, ma i candidati non mancano, specie per le scuole superiori. Riuniti a Trieste i massimi esperti dello studio sull'Antartide organizzato dall'OGS, il simposio accoglie 250 glaciologi che discutono in particolare dell'innalzamento del livello del mare e delle sue conseguenze. I telefonini dunque, anche se non tutti, hanno squillato poco più di mezz'ora fa, precisamente un minuto dopo mezzogiorno, un messaggio che non è stato né un SMS né un WhatsApp. Si è trattato del primo test di allarme pubblico, IT Alert, una simulazione per mettere in guardia i cittadini su gravi eventi di emergenza. Per qualcuno lo squillo non c'è stato, qualcun altro invece lo ha ricevuto più volte. Buongiorno, siamo in Piazza Unità, in questo momento i telefonini hanno smesso di suonare, anche se ci sono stati, come hai giustamente ricordato tu, tanti avvisi, soprattutto per tante persone che hanno ricevuto appunto l'allarme più volte. Il test IT Alert ha suonato esattamente alle 12.01 su oltre 1 milione di telefonini, di apparecchi collegati alla rete telefonica. Ricordiamo appunto, come hai ricordato, che non è né un messaggio né un messaggio WhatsApp, bensì un allarme di pubblica sicurezza. Era ovviamente un test che non tutti hanno gradito, qualcuno l'ha ricevuto anche più di 20 volte e quindi era un po', diciamo, stanco. Il test sicuramente ha funzionato nel momento in cui tutte le persone hanno pensato che questo test fosse tendenzialmente utile in caso di calamità naturali. Era una sperimentazione che metteva a prova questo servizio. In futuro, quando sarà operativo, invierà messaggi di allarme in tutte le aree interessate, anche più ristrette rispetto a tutta l'area regionale, tutte le aree interessate da gravi emergenze. Quando si tocca sulla notifica di allerta, l'utente dà conferma alla ricezione e quindi non dovrebbe riceverne altri, anche se in realtà, come abbiamo detto, tante persone ne hanno ricevuti più di uno. Attraverso il link del contenuto si può compilare un questionario che la Protezione Civile suggerisce di compilare proprio per evitare di servizi in futuro quando l'allerta sarà necessaria. Da Trieste per il momento è tutto, a dopo. Grazie ad Andrea Saule, che era in diretta per noi da Piazza Unità a Trieste. Ieri, in tarda serata, si è concluso con successo il recupero di Mark Dickey, lo speleologo statunitense rimasto bloccato a circa 1000 metri di profondità nella grotta Morca, in provincia di Mersin, in Turchia. L'uomo aveva avuto un malore sabato 2 settembre, mentre era in esplorazione all'interno della grotta, e non è più riuscito a proseguire autonomamente. Le operazioni di soccorso, cui hanno partecipato 4 operatori del soccorso alpino provenienti dal Friuli Venezia Giulia, sono state particolarmente lunghe e complesse, sia a causa della morfologia della grotta, sia delle condizioni fisiche dell'infortunato, che hanno richiesto tempo per essere stabilizzate e permetterne quindi la movimentazione verso la superficie. Durante il trasporto sono state effettuate lunghe soste necessarie per la valutazione dei parametri sanitari dell'uomo e per la somministrazione delle terapie, costantemente assistito da un medico e da un infermiere. A Gorizia la polizia ha arrestato un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un equipaggio della squadra volante della questura, nel corso della consueta attività di controllo del territorio, si è insospettito dopo aver incrociato il neomaggiorenne in via Torriani in sella a una bicicletta con uno zaino in spalla. All'attenzione dei poliziotti non è sfuggito un dettaglio: pochi minuti prima avevano visto la stessa persona, sempre in bici, ma senza alcuno zainetto. Una volta fermato per il controllo, il ragazzo è apparso immediatamente evasivo e agitato. Le verifiche hanno consentito al personale della Volante di rinvenire diversi panetti di hashish incellofanati e occultati all'interno della borsa, per un totale di quasi 600 grammi. A casa del giovane sono state poi rinvenute due piante di marijuana interrate in vasi di plastica, vasetti di vetro con rami e foglie di marijuana, due bilancini di precisione e altro quantitativo di hashish. Lo dicono le analisi matematiche, ma lo confermano anche i medici. Aumentano costantemente i casi di coronavirus in Italia e in maniera anche piuttosto accelerata nella nostra regione. Aumento atteso, ma diverso dal passato. In Friuli Venezia Giulia i contagi corrono più che altrove. In tutte e quattro le province si registra una crescita accelerata dell'incidenza dei casi di Covid, a dirlo l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche sugli ultimi dati resi disponibili dal governo. L'analisi indica che l'incidenza settimanale media nelle 107 province italiane è bassa e pari a circa 35 positivi per 100.000 abitanti, ma nelle ultime due settimane fino al 6 settembre è significativamente aumentata rispetto ai valori di luglio. Si notano comunque, osserva esperto, tre gruppi di province a seconda del tipo di trend: province con valore medio costante, quelle in crescita lineare e quelle in crescita accelerata, tra queste ultime anche Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. A Gorizia si osserva inoltre un'incidenza maggiore del 50% rispetto ai 7 giorni precedenti. Guardando i valori dell'incidenza settimanale, Pordenone e Udine spiccano con 40 casi per 100.000 abitanti, seguite da Trieste a 30 e Gorizia a 25. Sono comunque numeri 50 volte più bassi rispetto a quelli registrati nelle fasi più difficili della pandemia. Dalla clinica di malattie infettive di Udine, il direttore Carlo Tascini segnala che al momento la situazione è ancora tranquilla dal punto di vista clinico, il vero campanello d'allarme. L'esperienza insegna che tra le infezioni nella comunità e l'aumento dei ricoveri in genere vi è una latenza di 7 giorni. Se c'era qualcosa avremmo già cominciato a vederlo, ma al momento non ci sono ricoverati con sintomi gravi, afferma Tascini, che si dice abbastanza tranquillo anche sulla nuova variante Pirola, che appare meno rinfettante. Con l'incremento dei numeri aumenteranno anche i fragili con patologia respiratoria, ma siamo distanti dai numeri del passato, aggiunge Tascini, rinnovando le raccomandazioni per chi ha sintomi di comportarsi come con l'influenza, restare a casa ed evitare assembramenti, anche se è decaduto l'obbligo di isolamento, e usare la mascherina. Negli ospedali resta obbligatoria e al pronto soccorso niente tamponi per gli asintomatici, solo per chi ha sintomi, indica l'ultima circolare del Ministero della Salute, che prevede anche i tamponi nei trasferimenti da una struttura all'altra e nell'RSA. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. L'udinese Silvio Brusaferro lascia la guida dell'Istituto Superiore di Sanità e da oggi rientra nel suo ruolo di ordinario di igiene generale e applicata all'Ateneo Friulano. È stato per me un onore e un piacere poter lavorare con voi nella veste di presidente dell'Istituto Superiore di Sanità in questi 4 anni al servizio della sanità pubblica e del Servizio Sanitario Nazionale, ha detto Brusaferro accomiatandosi da dipendenti e collaboratori dell'Istituto. Sono stati anni storici e straordinari nei quali l'Istituto è stato chiamato a un incessante e totalizzante impegno che ha richiesto il contributo di tutte le sue componenti, ha continuato Brusaferro, che ha quindi voluto ringraziare i ministri della Salute Grillo, Speranza e Schillaci e i governi che si sono succeduti. Il timone dell'Istituto Superiore di Sanità sarà preso dall'endocrinologo Rocco Bellantone, già preside della Cattolica. E ora il consueto sguardo al meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 24 gradi. Il mare quasi calmo con una temperatura di 25 gradi. A Gorizia 26, a Pordenone 24 gradi e mezzo, a Udine 25, a Tolmezzo 22, a Forni di Sopra e Sappada 21 gradi, a Tarvisio 23, a Piancavallo 20, sul Monte Zoncolan 19, sul Monte Lussari 18 e mezzo, a Lignano 26, a Grado 23 gradi e mezzo. La temperatura del mare nelle due località è di 25 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature, probabile maggiore nuvolosità in montagna, specie sulle Alpi Carniche. Temperature massime in pianura e in montagna ancora oltre la norma e venti a regime di brezza. Domani al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature su tutta la regione, dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità e sulla zona montana saranno probabili rovesci o temporali che verso sera e nella notte potrebbero interessare anche pianura e costa. In quota soffierà vento moderato da sud-ovest, sulla costa vento da debole a moderato proveniente da sud. Mancano insegnanti di sostegno in Friuli Venezia Giulia, solo alle elementari 107 i posti che non si riescono a coprire. Siamo stati all'università dove c'è il corso di formazione per docenti di sostegno e i candidati non mancano, specialmente per le scuole superiori. Sentiamo. Ci vuole passione, conoscenza, sensibilità e consapevolezza per fare l'insegnante di sostegno una figura sempre più necessaria perché le diagnosi precoci e l'attenzione degli ultimi anni riescono ad intercettare prima i ragazzi che hanno bisogno di un supporto e se le scuole primarie e gli insegnanti di sostegno sono pochi, in regione ad oggi ne mancano 107. Alle scuole secondarie, medie e superiori la carenza invece è minore e all'Università di Trieste devono scremare le richieste per il percorso di specializzazione per l'insegnante di sostegno. Un percorso impegnativo, 750 ore, di cui 300 pratiche. Siamo con Elena Bortolotti, coordinatrice del corso e docente di pedagogia. Iniziate giovedì con le lezioni, 130 posti sono quelli che voi avete a disposizione, però i candidati erano quasi il doppio. Chi sono i candidati? Di cosa vi siete stupiti quest'anno? I candidati sono stati molti giovani, neolaureati, ma anche moltissime persone in età più avanzata che provengono da diverse lauree, da diverse professioni, come ingegneri, farmacisti, addirittura veterinari, che desiderano cambiare la loro posizione lavorativa e ambiscono all'insegnamento guardando questa professione con passione, con interesse. Questo è un bene per la professione perché in qualche modo, proprio per l'insegnamento, cattura anche altri profili. Certo, nelle scuole secondarie questo è importante, che catturi anche altri profili, perché poi ecco, le materie di insegnamento sono anche molto variegate. E un'altra cosa da dire è che sono persone che magari hanno già avuto qualche esperienza di supplenza anche sul sostegno e che sentono però molto forte l'esigenza di formazione alla professione. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Inclusione e sostenibilità. A San Vito al Tagliamento il Consorzio Ponte Rosso ha promosso un progetto per inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità. Un innovativo progetto di inclusione lavorativa di persone con disabilità promosso dal Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento con il supporto della Regione e mutuato dal collaudato metodo statunitense SEARCH coinvolge in attività in azienda 10 tirocinanti per la durata di un anno. Carlo Francescutti dirige i servizi sociosanitari di ASFO. Politiche attive del lavoro, servizi specialistici di riabilitazione, formazione professionale, impresa lavorano insieme in maniera intensiva per un anno, quindi con un obiettivo comune e al di là delle divisioni istituzionali costituiscono un team dedicato che accompagna passo passo le persone al lavoro. Il successo è testimoniato da quasi 800 progetti SEARCH in giro per il mondo, questo è il primo nel nostro paese, e da 36.000 inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettiva e autismo nelle imprese più diverse. Sergio Barelle, presidente del Consorzio Industriale Ponte Rosso Tagliamento. Il Consorzio Ponte Rosso Tagliamento è da anni mosso verso non più solo gestore di terreni, capannoni, ma di creare una comunità industriale. Comunità industriale è anche inclusione, sostenibilità in maniera concreta. Abbiamo cooperativa al nostro interno, abbiamo collaborazione, abbiamo creato un polo per l'inclusione l'anno scorso e quindi questo è un progetto innovativo di avviamento al lavoro di persone disabili con una metodologia innovativa che viene dagli Stati Uniti, dove l'obiettivo è quello di creare, di dare aiuto a questi ragazzi perché siano forza lavoro e che possono quindi realizzare loro stessi prima che le imprese con cui vanno a lavorare. Abbiamo delle imprese che hanno aderito, Brovedani in primis, e quindi anche questo è nella strada della sostenibilità concreta. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Più di 250 ricercatori e ricercatrici esperti in glaciologia provenienti da tutto il mondo sono riuniti a Trieste per uno dei principali appuntamenti per la comunità scientifica che si occupa di studiare l'Antartide e le interazioni tra l'oceano, l'atmosfera, la terra solida e la calotta glaciale antartica e le loro conseguenze globali, prima fra tutte l'innalzamento del mare. Continuare a usare carburanti fossili porterà a innalzare il livello del mare di 2 o 3 metri nel corso della vita dei bambini nati in questi anni. A dirlo è l'esperta di comunicazione scientifica Pam Pearson, direttrice dell'iniziativa internazionale sul clima della criosfera. Le fanno eco unanimi i 250 ricercatori riuniti al centro convegni di Trieste in Porto Vecchio fino a giovedì. Arrivano da tutto il mondo e sono i massimi esperti di glaciologia. Per misurare con precisione gli effetti del cambiamento climatico bisogna tenere d'occhio l'Antartide. Florence Colleoni, glaciologa dell'OGS e organizzatrice del convegno. Tutta la conferenza, molto multidisciplinaria, ha per scopo di aiutare a migliorare le proiezioni che sono state rilasciate l'anno scorso dal gruppo internazionale sul clima. Una cosa è chiara, è già troppo tardi. Sì, siamo tutti d'accordo e unanimi su questo. L'Antartide va tenuto d'occhio e purtroppo l'innalzamento del livello del mare non è evitabile. So we cannot avoid... Dalla Nuova Zelanda, Tim Naish, dirigente del centro di ricerca sull'Antartide, spiega che non possiamo evitare un minimo di 50 centimetri di aumento del livello del mare, anche se raggiungessimo gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma andrà molto peggio se non controlleremo le emissioni. Per questo stiamo cercando di dare ai decisori politici le migliori informazioni possibili, così che possano proteggere le popolazioni che vivono sulle coste. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati pubblicati l'avviso di asta pubblica per la vendita dei beni mobili disposti in eredità per testamento dal professor Attilio Maseri e le schede illustrative comprensive di fotografie e descrizioni. Cardiologo di fama mondiale, filantropo e mecenate, il professor Maseri, che tra i suoi pazienti ebbe anche la regina Elisabetta, credeva profondamente nel valore della ricerca e nella valorizzazione del merito e dei giovani, e contribuì con generosità al progresso della ricerca scientifica. Nelle sue ultime volontà il professor Maseri ha nominato eredi l'Università degli Studi di Udine e le aziende sanitarie universitarie di Udine e Trieste, strutture complesse di cardiologia molecolare, raccomandando di impiegare il ricavato per le attività e i progetti di ricerca, assistenza e formazione dei giovani, anche tramite l'istituzione di borse di studio per i più meritevoli tra questi. Per espressa volontà di Maseri, le attività progettuali di utilizzo dei fondi dell'eredità verranno coordinate per entrambe le aziende dal professor Gianfranco Sinagra, professore ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste e direttore del Dipartimento di Cardiologia del Dipartimento Cardiotoracico-Vascolare di Asugi. Asugi che ha pubblicato il bando per l'alienazione dei beni mobili. Si tratta di dipinti, stampe, incisioni, mobili, arredi, tappeti e altri beni di pregio. Beni che saranno visionabili su appuntamento dal 18 al 24 settembre presso Villa Florio di Persereano a Pavia di Udine. Si chiude nel segno di Mozart la prima edizione del Festival di Trieste ideato dalla Società dei Concerti. Alle 19.30 ritorna al Teatro Verdi la pianista canadese Angela Hewitt nella duplice veste di solista e direttrice d'orchestra. Hewitt è pianista tra le più apprezzate a livello mondiale, in particolare per le sue performance e registrazioni delle opere di Bach, ma sentiamola in un'esecuzione mozartiana. E siamo allo sport. Basket: nel derby friulano di Supercoppa al Carnera, APU Udine ha battuto Gesteco Cividale in una sfida che ha anticipato quelle del futuro campionato di A2, ma si tratta appunto di una partita di precampionato, come sottolineano entrambi gli allenatori Adriano Vertemati e Stefano Pillastrini al microfono di Andrea Saule. Una bella vittoria, siete andati molto bene nella seconda metà, anche con l'energia del cosiddetto secondo quintetto. Guarda, bisogna essere coerenti con quello che abbiamo sempre detto. Resta una partita di prestagione dove cercavamo di vedere, in un contesto di competitività come può essere la Supercoppa, come la squadra avrebbe risposto. La squadra ha risposto seriamente, secondo me, tutta la partita. È vero che poi piano piano siamo andati via, ma la squadra è stata praticamente avanti tutta la partita, quindi è stata seria, però questo vuol dire poco. Le difficoltà che abbiamo affrontato oggi non saranno magari quelle che affronteremo venerdì. Le squadre sono in costruzione, la nostra, anche quella di Cividale, che è un'ottima squadra, quindi noi prendiamo semplicemente le indicazioni che ci servono per continuare a migliorare. La risposta non è arrivata soltanto dai giocatori, ma è arrivata anche dal pubblico. 2700 i presenti oggi per una partita, come hai giustamente ricordato tu, di prestagione. Ah, questo è molto bello invece, questo bisogna già dire che è una vittoria, nel senso che sicuramente ci sarà stata anche tanta gente da Cividale, però insomma in una partita di Supercoppa così tanta gente, posso solo che ringraziare. Sono contento che abbiano visto una buona faccia della nostra squadra questa sera. Partiamo dalle cose migliori, l'intraprendenza anche dei giovani nel primi due quarti soprattutto. Vince buono. Sì, sì, mi sono abituato. Ormai mi conoscete, a guardare i risultati del precampionato. Abbiamo tante cose da fare meglio, tante cose da imparare. Udine ha fatto una signora partita. Noi siamo abbastanza indietro. Ho usato delle rotazioni a cui non siamo abituati, ci dobbiamo abituare perché questa è una squadra che vuole giocare in maniera diversa rispetto al passato, ma c'è bisogno di tempo. E con il basket è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Giampaolo Zucchi. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.